hashtag autotrasporti. Buonasera ad Andrea Ferro, bentrovati ad hashtag autotrasporti del lunedì, lo spazio di approfondimento del nostro programma dedicato al mondo dell'autotrasporto. E partiamo subito con la rubrica del numero. 29.060 sono i controlli compiuti dalla motorizzazione nel corso del 2014. Come avete capito, questa volta si parla di controlli e mezzi pesanti su strade ed autostrade della penisola. Controlli che vengono compiuti dai funzionari della motorizzazione in collaborazione con la polizia stradale e con le altre forze di polizia. Le verifiche riguardano gli autisti e i mezzi, quindi sono tecniche ed amministrative. Dei 29.060 mezzi controllati nel corso del 2014, per il 75% si è trattato di veicoli italiani. Gli stranieri sono stati quindi il 25%. I mezzi risultati in regola sono stati 16.429, quindi circa il 60%. Ai nostri microfoni Enrico Finocchi, direttore generale trasporto stradale ed intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L'attività di controllo sull'autotrasporto è un'attività specializzata ed integrata insieme alle pattuglie delle forze dell'ordine, quindi in particolare polizia stradale. Quindi noi cosa facciamo? In un'unica seduta di controllo facciamo un controllo integrato sia sull'adeguatezza dei mezzi tecnici, quindi del veicolo, anche attraverso dei centri mobili di revisione, quindi portiamo nei posti dove vengono effettuati i controlli su strada questi centri mobili che ci aiutano a verificare l'efficienza del veicolo, e poi soprattutto facciamo un controllo sulla legittimità poi di tutti i documenti complessi che devono avere gli autotrasportatori a bordo, specialmente quelli stranieri, per poter effettuare in maniera legittima il trasporto. Dalle statistiche risulta che è alto il numero di veicoli stranieri controllati. Cerchiamo di controllare il più possibile numero di veicoli stranieri, soprattutto extracomunitari, anche se questi controlli chiaramente sono molto difficili. Quali sono le irregolarità più frequenti che avete riscontrato? La irregolarità maggiore è quella sul mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo che sono prescritti per i guidatori. E per il resto la maggior parte si riferiscono all'efficienza dei veicoli. Sull'inefficienza dei veicoli o c'è una revisione che non è stata regolare, oppure ci sono piccole questioni relative a pneumatici, a cose di questo genere, però sono le più svariate. I controlli si concentrano in aree particolari? Scegliamo, individuiamo e presidiamo le aree di crisi principali, quindi vicino ai centri di distribuzione, merci eccetera. Una particolare attenzione ce l'abbiamo nel nord-est del paese, proprio perché lì arrivano molti vettori stranieri, spesso irregolari, nel senso che non sono regolari come documentazione di trasporto, e quindi lì facciamo in particolare controlli ai veicoli stranieri. L'Italia, potremmo dire, è all'avanguardia per i sistemi tecnologici utilizzati per queste verifiche. Noi siamo all'avanguardia proprio sugli strumenti informatici per la lettura del tachigrafo digitale, il cosiddetto police controller, quindi la verifica proprio della guida, dell'attività di guida e di riposo del conducente. Abbiamo dotato a spese del Ministero, in particolare Polizia Stradale, di moltissimi di questi apparati, stiamo provvedendo all'aggiornamento del software, quindi siamo in grado di effettuare su questo un controllo capillare e molto attento. E in questi giorni controlli straordinari sono scattati nel porto di Bari, dove è entrato in azione un centro mobile di revisione. A seguire le operazioni c'era il nostro Massimo De Donato, con il quale siamo collegati. Buonasera Massimo. Buonasera anche a te, buonasera anche a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Massimo, ci spieghi come funziona un centro mobile di revisione e come si sono svolte le operazioni di controllo nell'ambito di un porto densamente trafficato di mezzi provenienti dall'estero? Sì, i centri mobili di revisione sono dei semirimorchi portatili, sono delle vere e proprie officine viaggianti, ce ne sono 28 in tutta Italia. Si tratta di centri che vengono finanziati dall'albo degli autotrasportatori, quindi dagli stessi autotrasportatori, per consentire sempre di più e sempre meglio una regolarità del mercato in Italia. Grazie a queste officine viaggianti non solo si fanno i normali controlli amministrativi sulle autorizzazioni dei veicoli, ma si controllano tutti gli impianti di sicurezza dei veicoli da agli impianti frenanti, lo sterzo, insomma tutti gli organi meccanici che sovrintendono la sicurezza di un veicolo, e si controlla anche il conducente grazie a una serie di test che vengono fatti appunto sugli autotrasportatori, sia italiani sia stranieri. A Bari c'è stata in queste ultime ore un'operazione straordinaria di controllo che, come dicevi giustamente tu, è particolarmente importante perché Bari è una delle porte d'ingresso all'Italia, una porta importante d'ingresso per gli operatori dell'est Europa, e quindi così come avviene anche in altri luoghi, in altri porti, i controlli sono particolarmente serrati e si aggiungono a quelli che vengono già fatti normalmente. Stasera abbiamo dato un po' più di numeri del solito, hai statistiche aggiornate su questo genere di controlli? Assolutamente sì, nel primo trimestre del 2015 sono state fatte 240 operazioni di questo tipo, quasi tutte concentrate in posti di frontiera. Queste 240 operazioni hanno portato alla verifica di circa 4.000 imprese di autotrasporto, delle quali il 70% italiane e ben il 30% estere. Grazie Massimo, buonasera. Buonasera anche a te e di nuovo buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio 24. E di controlli su strada parliamo anche con Livio Pallicelli di Transcoop. Pallicelli, le aziende di autotrasporto come si pongono di fronte a questa campagna di controlli? Noi ci poniamo in maniera positiva, noi i controlli per noi che siano ben fatti e sono i benvenuti. Noi, la nostra organizzazione, la Transco, per le proprie imprese socie, non ha nulla contro questo. Quindi noi ci poniamo in maniera positiva e quindi noi da anni applichiamo delle regole interne che vanno contro la concorrenza sleale, che vanno contro chi utilizza la mancata osservanza della legislazione, della legge, per fare concorrenza, che non sono solo le ore di guida ma sono anche altri aspetti. Di fronte alle irregolarità che alterano il mercato, ritiene necessario un inasprimento delle sanzioni? Io credo che bisogna solo cercare di far applicare le leggi esistenti e semplificare la vita ai trasportatori, perché oggi ci sono tante regole che diventa quasi impossibile osservarle, quasi impossibile applicarle. Meno regole, ma con un'applicazione più certa e sicura. Secondo la sua esperienza, i controlli su strada con quali criteri vengono eseguiti? Senza una strategia di fondo. Ci si dimentica, adesso parlo dei controlli più in generale, del ruolo centrale che dovrebbe essere l'albo dei trasportatori, che dovrebbe essere la vera authority di controllo, e chi sgarra dalle regole dovrebbe essere eliminato, cancellato dall'albo dei trasportatori. Per quanto riguarda gli operatori stranieri, il discorso è sicuramente un po' più complesso, ma io credo che attraverso l'informatica i controlli sulla strada potrebbero essere più efficienti, e io credo anche che un altro problema che c'è in questo mondo sono i contratti che vengono fatti con i lavoratori stranieri, che producono un problema di concorrenza sleale all'interno delle aziende. Nella rubrica sul trasporto particolare, questo lunedì viaggiamo, diciamo così, sull'onda della musica. Parliamo infatti di strumenti musicali e orchestre con Emilio Viganò, titolare di un'azienda specializzata in questo genere di trasporti. È un lavoro molto delicato perché gli strumenti musicali sono delicati. Si tratta di trasportare più che altro strumenti ingombranti, quali pianoforti, fortepiani, clavicembali oppure timpani o per orchestre, diciamo. E serve personale specializzato che viene formato da noi direttamente. Diciamo che man mano che passano gli anni, essendo sempre in contatto con gli accordatori, così si impara anche qualcosa sul pianoforte, ecco. Trasportare strumenti musicali comporta la massima attenzione. Ogni movimento deve essere ben calibrato. Più che altro anche quando si tratta di pianoforti da concerto devono arrivare nei teatri accordati come lo erano prima, ecco, non si devono scordare. Nel tempo tecniche e sistemi di trasporto sono cambiati. Ad esempio i nostri predecessori, diciamo, trasportavano esclusivamente con delle cinghie. Se adesso disponiamo anche di mezzi elettrici che sono in grado di salire le scale oppure bracci meccanici per entrare dalle finestre, il lavoro si è evoluto. . Hashtag Autotrasporti termina qui. Vi ricordo i prossimi appuntamenti: il mercoledì alle 13.45 all'interno di Effetto Giorno e il sabato alle 14. Da Andrea Ferro, buonasera a tutti. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.